da possibili equivoci, non è un ciclo di conferenze sul disagio degli italiani. La nostra storia, che passione, questa volta la parola passione ha il senso positivo, no? Cioè, la nostra storia che comincia a interessarci, che ci piace, no? Che ci appassiona, appunto. È un ciclo di conferenze sull'autobiografia, dove avremo due conferenze iniziali di carattere teorico e una serie di conferenze di presentazione di libri di persone che a un certo punto della loro vita hanno cominciato a scrivere la propria autobiografia. Cominciamo oggi con la relazione di Duccio Demetrio, che è uno dei massimi esperti in Italia di questo filone. E lunedì 12 marzo avremo Diego Leoni, che parlerà dell'esperienza del laboratorio di storia di Rovereto, e poi avremo gli interventi di Ennio Marcelli, Giorgio Tirini, Mariella Fassardi, Ada Vita, Maria Pia Zamboni, Michela Lettieri e Gianluigi Dardo, che sono nostri concittadini che a un certo punto della propria vita hanno ricostruito la propria storia. E c'è da dire che il prossimo incontro con Diego Leoni è un discorso che può essere di snodo, no? Fra la parte teorica dei riferimenti all'autobiografia e la parte pratica. Perché Diego Leoni è un collega che negli anni 70 ha iniziato a insegnare a Rovereto nei corsi delle 150 ore, i corsi per gli adulti, non so se vi ricordate, no? Parliamo quasi di preistoria, vi ricordate negli anni 60? Non è mai troppo tardi, il maestro Alberto Manzi, perché il problema lì era proprio alfabetizzare, no? Le persone, gli analfabeti, c'erano ancora una percentuale di analfabeti molto molto alte in Italia. Negli anni 70 invece i corsi di 150 ore erano stati una conquista sindacale da parte di persone che non avevano ancora la scuola dell'obbligo, no? Che nel frattempo era diventata la licenza media. E il gruppo di Diego Leoni, il gruppo di Rovereto, Fabrizio Rasera, Camillo Zadra, ha cominciato a lavorare in quegli anni nelle 150 ore e confrontandosi con adulti che avevano un rapporto un po' particolare con la storia, vedevano la storia un po' come le altre materie, no? Cioè la geografia, le scienze, una materia che si deve studiare un po' a scuola, va bene? Per sapere quelle quattro nozioni che servono per superare l'esame. E questi colleghi insegnanti hanno cominciato un po' a ribaltare, insomma, no? Questo concetto, a dire che in fin dei conti la storia siamo noi. E hanno cominciato a chiedere a queste persone di raccogliere anche le proprie testimonianze, il materiale che ognuno di noi ha a casa, nei cassetti, vecchie fotografie, vecchie lettere, così. Perché i trentini, qui appunto parliamo della zona di Rovereto, i trentini avevano una storia particolare, perché la maggior parte dei trentini aveva fatto la guerra nell'esercito austro-ungarico. Però, essendo visti dall'impero come la popolazione non sempre nazionalmente fedele, questi venivano mandati proprio nelle zone più ad altissimo rischio. E questi colleghi roveretani hanno ricostruito biografie di trentini che durante la prima guerra mondiale sono finiti a fare la guerra in Cina e sono tornati dalla prima guerra mondiale del 1925-1926, quindi sono stati 10 anni in giro per il mondo a fare la guerra, va bene? Deportati, incarcerati. E via di questo passo. Poi il gruppo di Rovereto si è trasformato, ha organizzato una rivista e nel frattempo hanno organizzato una serie di convegni sulla memorialistica. E in quegli anni ho iniziato anch'io a insegnare, anch'io ho insegnato ai corsi per le 150 ore e lì per la prima volta ho letto i libri di Lucio Demetrio pubblicati dalla Guaraldi e dalla Franco Angeli, no? Cioè, i primi libri. Primi libri, fine anni 70, no? L'educazione degli adulti, ma che aveva un'impostazione molto politica, molto, molto sindacale, no? Molto rivendicativa. Nel corso dei 30 anni, chiaramente, questo discorso si è sviluppato in maniera ovviamente meno politicizzata, più scientifica, più pacata, ha portato a pubblicazione di decine di libri, una rivista che si intitola Adultità. Nel frattempo, poi, il lavoro di Duccio Demetrio si è sviluppato anche su altri ambiti, e ha portato a un'analisi molto importante del concetto di autobiografia e anche alla fondazione dell'Università di Anghiari. E prima di dare la parola a Duccio Demetrio vorrei leggere poche righe che mi è capitato di rileggere negli ultimi giorni in questo bel libro intitolato Memorie del male, tentazione del bene di Todorov, che è uno dei tanti libri, di numerosi libri usciti 5-6 anni fa in occasione della fine del millennio, no? Della fine del secolo, della fine del millennio, quando molti libri hanno tentato in qualche modo di fare un bilancio, non dico del millennio, ma almeno del secolo. E poi, come spesso accade, si torna poi dopo alle domande classiche, no? Ecco. E a un certo punto Tonolov dice: la costruzione del senso ha per obiettivo di capire il passato e voler capire il passato come il presente è tipico dell'uomo. In che cosa possiamo affermare che si tratti di una caratteristica della specie? Nel fatto che l'uomo, a differenza degli altri animali, dispone di una coscienza di sé. Cioè vuol dire che è costitutivamente doppio, perché sussiste sempre una sua parte che riflette sul resto e che perciò sfugge alla riflessione. Questo tratto, responsabile della sua capacità di agire liberamente, è anche la ragione della sua vocazione interpretativa. Gli uomini realizzano tanto più la loro umanità, quanto più rafforzano questa attività della coscienza e cercano di comprendere il mondo intero e, di conseguenza, di comprendere se stessi. Questo mi sembra una delle chiavi interpretative anche di questo filone molto interessante. Do quindi la parola al professor Duccio Demetrio. Grazie. Grazie. Forse è meglio che mi alzi così riusciamo a guardarci negli occhi. Io ringrazio la biblioteca e Giorgio Delle Donne per questo invito graditissimo che poi inaugura questo ciclo anche per me di grande interesse. Purtroppo non potrò sempre essere qui a Bolzano, anche se francamente per ragioni curiose sarò di nuovo nella vostra città ad aprile. Inaugureremo poi all'Università di Bressanone un'iniziativa quest'estate, ve la do proprio come un'anticipazione alla quale tengo molto. Con altri colleghi inaugureremo la prima scuola avanzata estiva dedicata alla scrittura. E abbiamo fondato con alcuni professori, fra cui il professor Fraboni, che alcuni conosceranno, che è tra i fondatori dell'università, tra l'altro di Bressanone, il professore a Bologna, ma con altri professori come il professor Maragliano, professor Contini, professoressa Contini, professor Cannevaro, una società di pedagogia e didattica della scrittura. Presenteremo nei prossimi mesi un manifesto che vuole essere un manifesto di rilancio politico-culturale della scrittura, richiamando tutti coloro i quali aderiranno a questa proposta, l'importanza di riflettere e di fare esperienza, soprattutto a partire dalla scuola, con un'attività di scrittura non solo declinata e appiattita sulle esigenze che la scuola di solito chiede, lanciando quindi il più possibile laboratori con i giovani e con i bambini anche di scrittura creativa, di scrittura autobiografica, usando le nuove tecnologie. E questo gruppo di studiosi ha sentito la necessità e l'impellenza di occuparsi appunto di scrittura, e anche in riferimento all'importanza che la scrittura svolge nel corso della vita, nel corso di un'intera vita. Noi in fondo tutti, se non siamo professionisti dello scrivere, scriviamo molto poco. In proporzione alle nostre letture, se siamo lettori accaniti, certamente non deboli lettori, in proporzione scriviamo pochissimo. E invece credo e crediamo che sia quanto mai importante, fondamentale, sensibilizzare all'uso della scrittura, per le ragioni che questa sera vedremo. Ragioni di cura, ragioni anche di carattere terapeutico, perché la scrittura ci aiuta nei momenti di difficoltà estrema che prima venivano ricordati. Quante scritture sono state scritte in trincea, nei campi di internamento, un'infinità. Ci si aggrappa e ci si avvicina alla scrittura per trovare una via di scampo, una via di riconoscimento personale anche nel disagio estremo. E la scrittura quindi ci viene incontro, viene lei a trovarci, come esigenza, come bisogno in questi momenti più difficili. Ma questo va sempre più reso noto, sempre più divulgato. E quindi la società scientifica, che avrà una sede anche qui, appunto, tra Bolzano e Bressanone, e si muoverà in questa direzione, si rivolgerà a insegnanti, a specialisti, a educatori, operatori culturali perché la scrittura venga in qualche modo, tempo fa qualcuno aveva parlato di lingua salvata, la scrittura venga salvata, perché forse non ce ne accorgiamo, ma la scrittura è minacciata non solo da un impoverimento progressivo del linguaggio, della sintassi, del lessico, è minacciata perché non ricorriamo a questa grandissima risorsa. Ecco, mi è piaciuto, proprio perché sono a Bolzano, quindi darvi in anteprima questo annuncio, poi seguiranno sicuramente altre iniziative e altre presentazioni. La società avrà tra l'altro l'onore di aver messo in rete almeno 15 università italiane, che vi assicuro non è cosa facile, conoscendo le bizze degli universitari che ben conosco, ahimè. E quindi essere riusciti a creare questa solidarietà, questo obiettivo condivisibile è a mio parere di grande importanza, ma non sarà soltanto, ecco, una società che si occuperà di ciò che invece occupa da molto tempo, la mia ricerca e la mia attività professionale, non solo di professore universitario, di studioso, insegno filosofia dell'educazione e anche teorie e pratiche autobiografiche all'Università di Milano, ma che vuole come proposta e come attività di lancio e di riproposizione attraversare, ecco, i diversi momenti, dicevo, della scrittura. Io però mi occupo di scrittura autobiografica e me ne occupo prima ancora che nascessero le 150 ore. Me ne occupo dalla fine degli anni 60, quando da giovane studente, proprio giovane allora ero, organizzavo corsi di alfabetizzazione nei quartieri della mia città con dei gruppi di amici, ci chiamavamo allora gli alfabetizzatori dei piedi scalzi per evocare un'immagine per alcuni versi un po' desueta che si usava nel tempo, poi svelatosi, non proprio celestiale, della rivoluzione culturale cinese. Gli alfabetizzatori dei piedi scalzi giravano nelle case, giravano nei quartieri popolari per spiegare direttamente, vocalmente, oralmente agli immigrati, allora italiani, che venivano dal sud, che venivano dal Veneto, che potevano contare nel loro quartiere su una scuola che avrebbe insegnato loro a leggere e scrivere con dei metodi nuovi, che erano i metodi di Don Milani, che erano i metodi di Paulo Freire, i metodi quindi basati su un principio che poi tra poco vedremo, è un principio guida fondamentale della scrittura autobiografica. Io mi dedicai ad insegnare a leggere e a scrivere usando un approccio, un metodo, in modo assolutamente pionieristico, che si basava proprio sulla raccolta delle storie di vita, dei racconti, di quanto poi, dopo qualche anno, nelle 150 ore, si sarebbe detto passaggio dalla storia personale alla storia sociale o la storia più in generale, che rispondeva al partire dal racconto di sé, dal racconto orale, delle proprie vicende, e dove accanto a questo narratore o questa narratrice, allora erano soprattutto narratori maschi. Oggi invece i rapporti sono molto capovolti, sono soprattutto le donne, anche se stasera vedo che c'è un certo equilibrio di partecipazione, ma solitamente sono le donne le grandi oggi protagoniste dell'attività di educazione degli adulti. E narratori e narratrici mi raccontavano queste storie, io le trascrivevo in stampatello, e quello diventava il loro primitivo, elementare abecedario. Imparavano a leggere e scrivere, rievocando quindi le loro vicende che si trovavano trascritte su un foglio e che li muoveva a una maggiore imitazione di quanto era scritto, li motivava maggiormente questa adesione tra la propria storia che ancora non sapevano ben leggere e questa importante, fondamentale per la loro storia di vita, come per tutti noi, che è l'abilità della scrittura. Ecco, io ho iniziato quindi molto tempo fa a occuparmi di autobiografie e successivamente nel tempo me ne sono occupato in quanto ho dedicato la mia vita a studiare metodi e approcci nel campo della formazione degli adulti. Dimenticai per un certo periodo queste esperienze giovanili per dedicarmi più anche ad aspetti legati alle tecnologie dell'apprendimento in età adulta. Si dice sempre che in età adulta noi possiamo apprendere se esistono tre ragioni, se no non ce la facciamo, non ne abbiamo voglia, non apprendiamo, non impariamo. E questo pare sia una sorta di regola fondamentale sulla quale certamente possiamo discutere, ma che io in parte condivido e che mi avvicina quindi al senso da me attribuito pedagogicamente al valore dell'autobiografia. Queste regole sono tre. Adulti, in quanto adulti, impariamo pare di più se partiamo dall'esperienza. Se lavoriamo sul nostro testo, su momenti del nostro percorso esistenziale di vita, non solo ovviamente per rievocarlo, per rieducarlo, ma per sviluppare da questi saperi che sono nostri, perché li abbiamo vissuti nel bene e nel male, per sviluppare altro sapere. Questa è la prima condizione. La seconda condizione è che se un adulto non è motivato, non è molto disponibile a perdere tempo e a dedicare tempo. Certo, può essere obbligato dalle condizioni formative che gli impone un'azienda, se no viene licenziato, per esempio. Però per apprendere profondamente in età adulta deve esserci una tensione, una motivazione, un desiderio di solito, diciamo. Non è una regola, a mio parere, francamente, riconducibile soltanto all'età adulta. È una regola anche più generale, per qualsiasi momento della vita è valida. Desiderare di imparare. Ecco. La terza motivazione è legata alla questione del tempo. Gli adulti di solito non hanno molto tempo per imparare e vogliono imparare piuttosto in fretta per economizzare questo tempo, però si accorgono anche che hanno bisogno di dosare il tempo dell'apprendimento con una certa libertà, non amano molto, non amiamo molto soggiacere a delle regole prefissate. Sono sempre regole legate a spazi particolari di apprendimento, a tempi, e così via. E sulla base di queste poche regole che ciascuno può, osservare, rispetto a se stesso quando impara qualche cosa, ecco che mi rivolsi di nuovo, alla relazione tra adulto che impara, avendo presente soprattutto la propria storia, la propria autobiografia, anche se salto un passaggio logico. In realtà l'autobiografia c'è dopo che l'abbiamo scritta, che abbiamo già scritto qualche cosa, se no non c'è, se no non c'è. Autos bios graphein. Questo è il termine che nasce dall'incontro di tre parole greche che non esisteva nella Grecia classica, ma che viene coniato, guarda caso, dalla filosofia tedesca alla fine del Settecento, nel tempo dell'Illuminismo, ad indicare da un lato la tensione preromantica, volta ben interpretata poi dal primo grande autore di autobiografie che fu Jean-Jacques Rousseau, che scrisse le sue ancora oggi vivissime confessioni. Ma questo termine, autos bios graphein, scrivere della propria vita, era anche l'esito di una ricerca filosofica raffinatissima che proseguiva da centinaia d'anni, che ritroviamo nelle raffinatezze intellettuali di, per esempio, di Michel de Montaigne, che poi ritroviamo in Pascal, che ritroviamo in Cartesio. Ci siamo tutti dimenticati che il metodo, le questioni di metodo di Cartesio in realtà sono un'autobiografia cognitiva. Iniziano così, iniziano proprio a ricordare al lettore quale fu il suo metodo di scrittura. Io le lessi al liceo, non le rilessi più in università, mi è capitato invece di rileggere recentemente, mi sono trovato, vengono scritte nel 1636, mi pare, o 26, dinanzi a un'autobiografia intellettuale. E alla fine del Settecento, tra romanticismo passionale, desiderio di documentare la propria storia, di trascrivere, ricorderete i diari di viaggio, del viaggio in Italia di Goethe, no? Che passò poi tra l'altro da queste parti, poi proseguì rapidamente, pare, verso Riva del Garda, dove sostò a Riva del Garda perché gli avevano detto che c'erano delle donne più belle, e quindi aveva questa debolezza, come sappiamo. E che incarnò il senso profondo della scrittura autobiografica nelle due direzioni citate: il romanticismo come enfasi sulla soggettività, sull'io che anche in modo estetizzante ha bisogno di raccontarsi, di rappresentarsi e di mettersi anche in spettacolo, di autoesibirsi. Ma dall'altro c'è tutta la raffinatezza illuministica di una scrittura, proprio quella goetheana, che come sapete è scrittura eccellente anche dal punto di vista dell'analisi che Goethe conduceva rispetto a osservazioni nel campo della botanica, nel campo dei colori, nel campo anche della zoologia, un grande erborizzatore come fu anche appunto Rousseau. Mi rendo conto che la sto prendendo un po' alla lunga, ma credo che sia importante, in primo luogo, questo è il mio primo, per usare una parola un po' frusta, obiettivo questa sera. Sentire tutto il fascino e l'orgoglio culturale, filosofico che c'è in questa lunga parola, autobiografia. e che nasce non a caso, appunto alla fine, che viene inventata da Schlegel non a caso alla fine del Settecento. E questo motivo, questo doppio motivo, il motivo della passione, del desiderio, e il motivo prettamente intellettuale, critico, molto raffinato di descriversi o di autodescriversi, che è proprio dell'illuminismo, si riproducono e continueranno sempre a riprodursi nelle autobiografie sincere. Nelle autobiografie sincere. E su questo aspetto voglio dire qualche cosa. L'autobiografia può essere anche un genere assolutamente discutibile, se non in certi casi anche perverso. Perché perverso? Perché se noi scriviamo la nostra storia di vita per vendere più libri, o vendere più dischi, o fare più soldi, o conquistare più elettori, questo è un uso perverso della scrittura autobiografica. Poi possiamo discuterne, però è un uso strumentale della scrittura autobiografica. Qualcuno potrebbe anche aggiungere che in realtà è sempre stato così, perché Sant'Agostino scrisse le sue confessioni perché aveva bisogno di una patente, diremmo oggi, di un passepartout, aveva bisogno anche di offrire delle credenziali perché voleva diventare vescovo. E Jean-Jacques Rousseau scrive le sue confessioni perché voleva essere riammesso e reintegrato nella società del tempo. Gli andò malissimo perché addirittura lo misero all'indice e bruciarono le sue confessioni. Quindi non è che ti vada sempre bene questa operazione. Però c'è un'enfasi che talvolta diventa eccessivamente narcisistica nella scrittura di sé, che priva la scrittura autobiografica di questo motivo che oggi è riconosciuto da tutti gli studiosi a livello internazionale di autobiografia, il motivo determinante. Il motivo è la sincerità con se stessi. Se io scrivo un'autobiografia per ottenere qualche altro scopo, per ottenere un vantaggio, il motivo profondo della sincerità viene meno. In una scrittura autobiografica non possiamo perseguire la verità, e tantomeno la verità oggettiva. Potremmo discutere filosoficamente di verità. Certamente una scrittura autobiografica non può perseguire una verità. Persegue una verità semmai assolutamente personale, individuale, ma che verrebbe immediatamente in quanto verità contestata dallo scienziato come anche dal filosofo. Quindi ciascuno di noi è portatore di una propria verità, ma siccome il termine è così delicato, si è preferito sostituirlo con la richiesta all'autobiografo, all'autobiografa, perlomeno di esporre sinceramente, senza altri fini, la rappresentazione della propria vita, della propria vicenda. E questo motivo, quindi, dicevo, della passione per la scrittura, che emerge, usiamo pure un riferimento quantitativo, statisticamente, nella metà della vita, nella metà della vita, attorno ai 45-50 anni, oggi in certi casi anche prima, questa tensione, questa pulsione, agli inizi del mio libro Raccontarsi, mi riferisco proprio a questo motivo, e dico: c'è un momento nel corso della vita in cui abbiamo bisogno di raccontarci in un modo diverso dal solito. Questa diversità è rappresentata dal desiderio di raccontare non solo per disperdere al vento le nostre parole, i nostri racconti, ma per depositare sulla carta, per fermare le nostre memorie, i nostri ricordi, per ragioni che possono essere quelle ricordate prima, ma per ragioni che vanno anche da un bisogno quanto mai testimoniale di lasciare memoria di sé ad altri, ai propri figli, ai propri nipoti, ai propri allievi. La storia dell'autobiografia conta quindi destinatari molto diversi, ma c'è un destinatario sempre nella scrittura autobiografica. La scrittura nasce socialmente, viene inventata socialmente per degli scopi sociali, che sono scopi di comunicazione, di trasmissione del sapere, della conoscenza, eccetera. E quindi ciascuno di noi non si sottrae, in fondo, nella cultura autobiografica anche molto personale, da questo desiderio talvolta anche molto misterioso, molto enigmatico, di scrivere per qualcuno. Sant'Agostino lo fece, al di là di quanto dicevo prima, per comunicare con Dio, per stabilire un nesso diretto, mediato dalla scrittura, col Dio unico nel quale aveva iniziato a credere. E ciascuno di noi lo può fare anche oggi, per esempio, per ragioni di carattere religioso. Allora la scrittura autobiografica diventa autoconfessione, diventa, vi ricordo quel libro splendido di Maria Zambrano, dedicato proprio alla scrittura di sé, come alla confessione come genere letterario. La scrittura autobiografica può diventare memoriale, può diventare racconto da lasciare a qualcuno, perché attraverso l'autobiografia, e questo è il motivo romantico, non tanto illuministico, che continua ad animarla, ripeto, per ciascuno di noi quando ci avviciniamo alla scrittura, anche in me quando mi occupo di autobiografia, mi riecito tutte le volte, mi coinvolge questa cosa, perché la scrittura autobiografica persegue un desiderio, se vogliamo, infantile per alcuni versi, un'illusione di eternità, il desiderio di poter durare un po' di più, il desiderio di prolungare la nostra vicenda, consegnandola all'autobiografia o consegnandola a dei diari, per l'illusione di riuscire a trasmettere qualcosa che nell'antichità, questo viene sempre ricordato a proposito di storia della scrittura, veniva consegnato per esempio alle epigrafi tombali. Non so qui in Alto Adige, in Trentino, ma io, soprattutto abitando spesso, quasi metà anno, in Toscana, ho una passione per i piccoli cimiteri toscani, non perché abbia appunto tensioni malsane, ma perché nei cimiteri toscani ritrovi ancora, se mai passerete, che so, da quel paese vicino a Siena, stupendo, che è Monteriggioni, che si vede arrivando circondato dalle mura, andate nel cimiterino di Monteriggioni e trovate delle epigrafi che tutta la collettività e la famiglia ha dedicato agli scomparsi, valorizzando qualcosa della loro storia, per prolungare tutto questo. E quando lo facciamo in prima persona, quando scriviamo sul nostro quaderno o in altre forme, noi perseguiamo questa illusione di eternità. Potrebbe essere anche una sorta di viatico per il passaggio dell'Acheronte, no? Non c'era solo la famosa moneta, forse oggi anche questo corrisponde alla moneta. Ci presentiamo nell'aldilà con le nostre credenziali. C'è quindi tutto un immaginario che noi coltiviamo, senza rendercene spesso conto, scrivendo la nostra autobiografia. C'è un desiderio quindi di transizione che non sarà possibile nelle condizioni fisiche nelle quali ci troviamo vincolati, allora perseguiamo una transizione che ci porti altrove, depositandoci sulle pagine di appunto un diario oppure sulle pagine di un libro, se poi avremo anche il desiderio e la fortuna di volerlo pubblicare, ma non è strettamente necessario. Perché io forse sono assolutamente radicale in questo, ma credo che le autobiografie più sincere, ritorniamo a questo motivo della sincerità, siano proprio le autobiografie che non ambiscono alla pubblicazione. Perché questo? Perché poi eventualmente sono altri a donarci poi una pubblicazione, se quello che abbiamo raccontato vale veramente la pena. Perché, e qui torniamo a alcuni motivi che citavo prima, perché nella scrittura autobiografica noi dobbiamo tentare di diventare il più possibile autoanalisti di quello che stiamo facendo. Noi scriviamo di noi stessi in primo luogo per riavvertire con una particolarissima sensibilità, che è appunto la sensibilità autobiografica, per risentire ancora di più il desiderio di esistere, di essere al mondo, di affermarci quindi con la penna, testimoniando non solo la nostra vicenda, i nostri fatti importanti, le nostre vicissitudini o i nostri successi, ma soprattutto per testimoniare che la nostra mente sta lavorando ancora. Questo, per esempio, è un motivo che rende la scrittura autobiografica oggi sempre più diffusa nelle attività, nelle iniziative per l'età anziana. L'autobiografia non è solo bilancio o ricostruzione della propria storia, ma si scrive di noi perché scrivendo di noi ci sentiamo ancora vicini, in primo luogo, a chi è scomparso, a chi non c'è più. In secondo luogo, vogliamo tornare a essere vicini a tempi, a momenti della nostra vita che abbiamo inevitabilmente perduto e fra questi c'è l'infanzia. Accompagnando io alla Libera Università di Anghiari, ormai centinaia di persone, oltre ai miei studenti in Università a Milano, verso la scrittura autobiografica, mi trovo dinanzi quasi sempre a un'enfasi posta soprattutto nei confronti della ricostruzione della propria infanzia. L'infanzia continua a essere, non è necessario aderire alle tesi psicanalitiche per osservare questo, l'infanzia continua a essere il nostro luogo delle origini, continua a essere, se usiamo un termine che forse può apparirci eccessivamente sentimentalistico, il nostro giardino segreto. L'infanzia è il paradiso perduto. Le scritture autobiografiche si rivolgono all'infanzia perché è nel corso del nostro scrivere che sentiamo con forza la necessità di muovere nella nostra storiografia personale. Questo non vorrei proprio che fosse disperso. In una storiografia certamente non avvicinabile con i criteri degli studi storici, ma sentiamo pulsare dentro di noi la gioia anche di essere storiografi ricorrendo a quei momenti della nostra infanzia che sono assolutamente inalienabili, che sono i momenti in cui abbiamo imparato a camminare, in cui abbiamo imparato ad andare in bicicletta, abbiamo ascoltato qualcuno, abbiamo annusato qualcosa per la prima volta. Ecco, questo luogo, il luogo del tempo, dell'infanzia, è il vero e proprio luogo radicale delle nostre memorie. Ma è anche importante questo riferimento all'infanzia perché la scrittura autobiografica è una scrittura particolarissima, non è una scrittura creativa. Siamo creativi perché scriviamo, siamo creativi perché creiamo racconto, creiamo atmosfere, ricreiamo luoghi, questo senz'altro è un compito della mente che guida la penna e poi ci accorgiamo che in realtà è la penna che ci guida e allora scopriamo che abbiamo un inconscio autobiografico, per usare un riferimento freudiano. Ma nel nostro moto, nel nostro movimento di ricerca, ci muoviamo a zonzo, se vogliamo, retrospettivamente, dentro di noi, per avvertire quasi ludicamente, per gioco, il piacere di ritrovare, di far risuonare dentro di noi queste memorie che credevamo perdute. E lo facciamo poi sempre più scoprendo che non conta tanto il fine, il numero di pagine che abbiamo scritto, conta il fatto che siamo entrati in un processo. Che siamo entrati in un processo cognitivo, che siamo entrati in un processo affettivo che abbiamo visitato o ritrovato in qualche modo. E questo motivo profondo, radicale, rappresenta anche la dimensione strettamente lirico-poetica della nostra esistenza, e forse la dimensione più sincera, per tornare al motivo precedente. Ha scritto uno dei più grandi studiosi contemporanei di scrittura, Jacques Derrida, che la scrittura è inaugurale, non perché essa crea, ma per una certa libertà assoluta di dire e di far scoprire il già qui, il già qui. Questo già qui, se torniamo a quanto dicevo prima a proposito di alcune elementari regole che riguardano la nostra formazione in età adulta, questo già qui è l'esperienza. Possiamo essere assolutamente ormai dispersi anche di certe memorie. Ma una cosa è certa, la scrittura autobiografica svolge, per usare un termine famoso della pedagogia o della filosofia socratica, svolge una funzione maieutica. La scrittura autobiografica è una sorta di automaieutica, perché chi scrive non attinge alle storie di vita degli altri, anche questo, ma successivamente, quando vuole includere anche gli altri nella sua narrazione. In primo luogo ti accorgi che automaieuticamente estrai dalla tua vicenda una varietà considerevole di episodi, di memorie, e si mette in moto un processo, quindi di carattere retrospettivo. L'autobiografia è retrospezione, e in quanto retrospezione, ritornando a quel motivo precedente della scrittura creativa, in quanto retrospezione che si fonda sulla nostra storicità, sulla nostra soggettività storicizzata, l'autobiografia obbedisce a dei canoni. che per esempio non sono i canoni della scrittura creativa. Il canone dell'autobiografia qual è, in primo luogo? Il radicarsi in una esperienza effettivamente vissuta, ma il radicarsi all'interno di un contesto storicamente dato. Se scriviamo la nostra autobiografia, non possiamo inventarci la data di nascita. Salta quella sincerità che abbiamo promesso all'inizio. Non possiamo inventarci di essere nati in un altro luogo, in un altro ambiente. E per questo io ritengo che anche nell'educazione dei bambini o nell'educazione dei giovani, il rispetto del canone autobiografico, che è cronologia, ci riporta a una maggiore positività rispetto a noi stessi. Ci sono dei vincoli. La scrittura autobiografica è vero, ho appena osservato questo corso di scrittura creativa dove si parla di seminario sull'autobiografia romanzata. È importante la scrittura romanzata della propria autobiografia, purché però se autobiografia non si bari troppo, perché sennò diventa un'altra cosa. Diventa fiction. Ed è talvolta più bello, vi assicuro, molto più divertente seguire un laboratorio di scrittura creativa, perché puoi inventarti fiabe, favole, ti immagini pirata e quindi costruisci delle simbologie particolari rispetto a un corso di scrittura autobiografica, perché il corso di scrittura autobiografica ti riporta alla tua positività storica, ti riconduce a questa sincerità. Hai avuto certi genitori e non altri. Nel romanzo autobiografico te ne inventi di nuovi, per esempio, ma non se sei in autobiografia. E questo valore, quindi, della storicità autobiografica, ripeto, dal punto di vista pedagogico, mi sembra molto importante oggi, per giovani che vivono in una realtà sempre più virtuale, sempre più rarefatta, sempre più lontana dalla radicalità dei fatti, dalla loro intrinseca materialità. Per carità, un seminario sull'autobiografia romanzata.